Una buona serata, Radio Città del Capo, Radio Metropolitana, per chi non lo sapesse, in compagnia di Max Macchia questa sera, senza il buon Eliseo Scarpa, che saluto, magari è all'ascolto in quella di Udine. Sì, magari via chiaramente non etere, ma via bit, quindi col suo computerino casalingo. Se in quel caso appunto in ascolto, ciao Eliseo. Questa sera Max Macchia in compagnia di fantasmi, folletti e quant'altro, vi possiate immaginare, da musiche che già, come il sottofondo magari vi suggerisce, provengono da altri mondi o da questo mondo, però nascosti dietro magari qualche foresta che non è per forza quella di Sherwood, ma potrebbe anche essere quella, magari folletti che escono da qualche boscaia magari neanche tanto lontana da queste lande, visto che poi i Celti sono arrivati anche più o meno fino all'Emilia. Quindi, se non ancora l'avete capito, questa sera si tratterà di musiche magiche. Max Macchia vi accompagnerà, spero di fare insomma il guru buono, oppure non so, farò il cattivo maestro, forse tra tutte e due preferisco la seconda. I buoni cattivi maestri degli anni 60-70, anche sulle strade insomma delle psichedelie, e questa sera in particolar modo dell'acid folk. 451 frammenti sonori, dopo il Jerry fantasmagorico e molto odronico questa sera, che saluto, ci stiamo ritrovando dopo qualche mese, questo incrocio insomma magico, visto che due settimane fa la prima puntata di 451 non ci eravamo ancora incrociati. Questa sera evidentemente portano bene le fate e questi esseri magici. Per iniziare quindi questo viaggio dentro l'acid folk, voglio sottolineare che tutto parte da un articolo di un 2006 di Gino Del Soler, dal Blow Up 98-99, articolo veramente straordinario, anzi recuperatelo, proprio sull'acid folk. Parte questa trasmissione proprio dalla lettura di questo articolo. Non può essere qua Gino, ma ringrazio tanto per avermi concesso insomma la mano libera, spero insomma di come dire, non farlo sfigurare qua a Città del Capo, poi soprattutto insomma visto e considerato che oltre che essere un'ottima penna è stata anche un'ottima voce di questa radio, non solo. Partendo quindi da uno dei suoi consigli, ovvero una musica che ci riporta dentro il paganesimo del nord Europa medievale, andiamo a trovare Gwydion, gruppo misconosciutissimo, con un disco che appunto ci riporta indietro di secoli o forse anche in tempi ancestrali, musica veramente di grande potere evocativo, direi quasi stregante. Gwydion. Thank you. honey, and she says, do you want to see? I put my hand on her breast, and she says, do you want a kiss? Gently, gently, gently, Johnny, gently, Johnny, my jingle, gently, gently, gently, Johnny, gently, Johnny, my jingle. I put my hand on her thigh, and she says, do you want to try? I put my hand on her belly, and she says, do you want to feel me? Gently, gently, gently, Johnny, gently, Johnny, my jingle, gently, gently, gently, Johnny, gently, Johnny, my sun at midnight. Fair maid, white and red, comb you smooth. Film eccezionale che racconta proprio di questo viaggio tremendo, anche piuttosto allucinato, dentro una Inghilterra che non è più tale, anche perché è un'isola dell'Inghilterra dove avviene il fatto, dove la narrazione fantastica si trasforma in una sorta di incubo che all'inizio ha appunto questo clima quasi fiabesco, molto anche giocoso, per poi invece trasformarsi in un vero inno pagano, e quindi anche con tutta quella quel lato scuro, fuori da sicuramente edulcorazioni poi subentrate dentro le antiche leggende eccetera eccetera, ma invece di grande focosità, si potrebbe dire, per molti aspetti, ma non voglio dire nient'altro su The Wicker Man, film capolavoro musicato da Paul Giovanni, oscuro anche lui personaggio della fine degli anni 70, che della fine degli anni 60, inizio 70, che appunto iniziava questo percorso per tanti versi, già dentro musiche che si volevano minimaliste per alcuni aspetti, ma più legate magari a psichedelie, finger picking o con accenti decisamente orientaleggianti, quindi il raga chitarristico di John Fay o le cose stupende, meravigliose di Robbie Basho, che tra l'altro andremo a sentire proprio tra pochissimo. E da questi autori americani che avevano una, come dire, un'invenzione della tradizione degli obos, che diventavano una sorta appunto di cantastorie dentro un'America che comunque era non particolarmente antica, perlomeno non a livello storico, nella storia dell'uomo bianco che colonizzò quella terra, però sicuramente aveva quei rimandi sia degli europei che appunto colonizzarono quelle terre, sia comunque dei nativi americani che influenzarono a loro volta poi musicalità di grande respiro, di grande anche cuore sonoro, perché no, perché non parlare anche di appunto anima e di animo particolarmente illuminato. E questi grandi maestri poi hanno dato chiaramente anche il là per una riscoperta di musicalità per molti versi coperte soprattutto nel secondo dopoguerra dalla modernizzazione e quindi dalle generazioni beat blues, che però appunto elettrizzavano il blues americano, lo rendevano appunto una sorta di rock and roll europeo inglese, e invece con appunto una generazione nuova che si rifaceva appunto a Faye, a Basho, a vari personaggi insomma del giro psichedelico, quello più visionario, gruppi come Pentangle, come Fairport Convention, Shirley Collins, personaggi insomma di grande levatura musicale, di grande immaginazione, recuperarono vecchie leggende, vecchie musicalità oramai nascoste sotto la polvere del tempo, e ne fecero uscire veramente delle musiche di grande anche innovazione, anche con accenti decisamente sperimentali, quindi una sorta di mutazione folk, di allucinazione sonora che prendeva il via appunto con quella generazione e che dentro Wickerman aveva, come dire, il suo apice anche visivo e visionario, assolutamente da vedere. Recuperatelo in qualche maniera, adesso si trova anche sulla rete sottotitolato, non in maniera perfetta, però già è una cosa dopo tanti anni di ricerche. Tra l'altro Wickerman è anche un film che influenza tuttora tutta la weird music, più o legata appunto al folk, e quindi anche per questa cosa è assolutamente un trade union fondamentale per capire appunto varie generazioni, e perché no, una musica proprio che parte da lontanissimo, come quella di Robbie Basho, un psichedelico assolutamente illuminato dentro appunto un misticismo tutto suo, tra zen e antiche religioni studiate e attraversate musicalmente in maniera assolutamente originale. Ci andiamo appunto ad ascoltare il grande Robbie Basho da uno dei suoi piccoli grandi gioielli, Son of Stallion, per continuare appunto questo viaggio, per iniziarlo proprio a fondo, già con una Gideon Wickerman e appunto ora Robbie Basho. dark mountain, there is a white teepee pitched against a purple sky. In it, the princess of the silver waters sings to her lover. I walk up there amidst the odor of plums and the sprinkling of stars and greet her. And we join hands and together we go riding up there, up the dark mountain, to meet her father. Her father who is truly chief, her father who is truly light, his golden face glowing, his white feathers flowing. And father, we would be married here atop the mountain. And father, hear us sing. Yahe, yahe, yahe. Thank you. Son of Stallion, un disco meraviglioso, tratto da quello splendido repertorio che quella meraviglia, scusate se mi ripeto, però probabilmente così la voglia anche di far uscire un personaggio come Robbie Basho, personaggio musicale purtroppo per pochi, se John Fay, forse anche giustamente per alcuni aspetti, sicuramente le produzioni sono state molto più ampie di quelle di Basho, comunque, e per certi versi insomma Fay è anche stato il maestro di Basho, comunque stante le cose così all'oggi sicuramente Fay gode di fama, seppur limitata, insomma sicuramente maggiore rispetto a quella di Basho, che è stato un suo allievo, ma per tanti versi veramente si accende, come dire, quella sorta di misticismo musicale perseguito poi dalla Tacoma Record, che era poi un modo per viaggiare dentro mondi musicali e non solo, attraversando anche quelle che erano le terre delle psichedelie di quegli anni, della fine degli anni 60, per approdare in zone anche non ben conosciute, appunto con questo ambito qua vagamente sperimentale nel senso più ampio del termine, e appunto Basho come un altro grande allievo, seppur insomma più o meno coetanei, come Leo Kottke, altro grande personaggio che non sarebbe sfigurato questa sera, ma comunque anche lui avrà modo di passare qua da 451 frammenti sonori. In effetti era la prima volta che facevamo passare Basho, mi sembrava il caso insomma in questa puntata dedicata alle mutazioni folk, all'acid folk, così molto sui generis. Questo ci interessa come discorso vago, quindi un acid folk che vive più appunto di stranezze, di strane vibrazioni, di un acido che rimanda a un qualcos'altro, o forse anche un oltre, che per tanti versi, come anche ci ricordava o ci faceva appunto pervenire anche in maniera così molto suggestiva Basho, con questa voce che andava quasi a incantare le sirene o le serene, insomma. Un po' voi in un caso o nell'altro, visto che poi prima si parlava, si accennava anche a Sherwood, se da una parte c'erano personaggi musicali che prendevano le vie di una sorta di mistica musicale per appunto sperimentare, altri ebbero proprio quasi veramente come punto di riferimento Robin Hood, una sorta di controcultura che passava anche dentro quello che sembrava assolutamente improponibile fino a quel momento, ovvero una sorta di ritorno, però che è un ritorno che si fa primitivo in questo caso, quindi una sorta di origine, originalità anche, quindi dentro queste musiche, una sorta di controcultura che va a cercare le proprie origini e le trova anche neanche tanto paradossalmente proprio le origini di quei cantastorie, di quelle leggende che portavano appunto ad un altro subito, anche per tanti aspetti, che già di fatto insomma potevano insomma provare non soltanto i nostri antichi padri attraverso funghi allucinogeni o cose di questo tipo, ma anche appunto attraverso la narrazione, attraverso i fantasmi, insomma, che non era soltanto essere inquietante oppure semplicemente insomma cristianizzato dentro l'idea insomma del male, delle eresie eccetera eccetera, ma appunto un altro che accendeva il mondo del fantastico, come fantastica è l'immagine di Clive Palmer, personaggio legato alla controcultura della fine degli anni 60, primi anni 70, dentro Incredible String Band, band inglese decisamente importante proprio per questo percorso dentro l'acid folk, dentro le mutazioni poi musicali, con appunto riferimenti veramente di ricerche quasi etnologiche, in questo senso anche quindi una certa razionalità dentro un percorso che sembrerebbe non averne, in realtà ne ha e come, e anche per quanto riguarda Basho, che si rifaceva a tutto il mondo del raga, quindi lo studio anche delle musiche antiche indiane. Clive Original Band si lanciano dentro questo trip, strange trip fantastico, che li porta veramente lontani, dopo appunto l'esperienza magica con gli Screndibili String Bang per il loro primo disco. Clive Palmer, prima di andare in Afghanistan e perdersi quasi definitivamente dentro quelle terre, quelle dimensioni così altere, fece uscire due dischi che sono due gioielli di acid folk. Andiamo a trattare dal primo disco, Clive Palmer e i suoi Cobb, insomma più conosciuti come Clive Original Band, Spirit of Love, 1970, un viaggio veramente lungo una vita e forse anche di più. Thank you. torches all beneath the rose tree are forgotten. The faded writings up the morning sky. Whoa. Bene, tornati in diretta dopo questo viaggio incredibile dentro le musiche di Clive Palmer, della sua original band, appunto Clive Original Band. Nel primo disco Spirit of Love si respirava, come per molti versi anche nel secondo, The C.O.B., detta meglio di prima, Cobb, insomma, un po' troppo italianizzata come faccenda, che appunto con questo disco appena ascoltato si lanciavano veramente in mondi assai fatati, dentro però musicalità che già andavano a esprimere quell'alterità che sarà di molta sperimentazione weird di questi giorni, quindi un acid folk che diventa viatico anche per altri tipi di viaggi, altre quindi musicalità che aprono evidentemente, come d'altronde se prima abbiamo appunto rimandato Robbie Basho, sicuramente con Clive Palmer si riprende quel fil rouge che verrà poi portato in avanti da altri personaggi che troveremo dopo, quello di una tradizione che per tanti versi viene appunto inventata in chiave assolutamente fantasiosa e fantastica, con Basho, Clive Original Band, sicuramente altro personaggio, non più sulle sponde inglesi, quindi la terra d'Albione, ma in quella America allucinata della fine degli anni 60, sia di LSD ma anche di visioni assolutamente inedite per una generazione appunto che si affacciava violentemente anche nel mondo sociale, anche appunto dicendo in maniera urlata, quindi non soltanto a bassa voce come magari si è indotti a pensare da qualche appunto edulcorazione new age di questi ultimi anni, che poi tanto ultimi non sono, visto che le cose sono anche complesse e affondano insomma già a metà degli anni 70, ma non complichiamo la faccenda, anche perché più di una volta abbiamo fatto un po' di chiarezza sulla nascita del new age, e c'entra anche in un certo qual modo una certa forma di ipismo che va insomma un po' a, come dire, a quietare gli spiriti bollenti. Ma comunque, a parte questa digressione, comunque è anche abbastanza importante, proprio dentro queste visionarità che si affacciavano in quegli anni, in quella fine 60 così focoso, sicuramente altra figura di grande spicco, Peter Walker, anche egli unito a Basho, ascoltato prima, per una sorta di viaggio incredibile dentro le musicalità più aperte, queste veramente accordature che si aprono verso l'universo sonoro e immaginario, con il suo splendido raga, va veramente a toccare punti anche molto delicati che saranno anche fondamentali per buona parte della drum music, soprattutto chitarristica. E tra l'altro Peter Walker, una figura piuttosto anche importante, e un ponte anche tra un altro grande genio della chitarra come Sandy Bull, che sentiremo dopo, forse un po' più così giocoso dentro le sue esplorazioni psichedeliche, e invece un personaggio insomma decisamente più drammatico come Carole Dalton, la grande cantautrice, anch'ella decisamente presa da visionalità e da musiche veramente ispirate da grande animosità. Tutte e due erano amici appunto di Peter Walker. Poi le storie insomma sono andate diversamente per Sandy Bull, per Carole Dalton, come d'altronde per Peter Walker, ma da questi grandi viaggiatori musicali, non solo, visto che poi attraversavano veramente l'America da una parte all'altra, come appunto si voleva in quegli anni, West Coast, Coast to Coast, pardon, anch'egli, quindi anch'essi viaggiatori, appunto, non solo musicali, ma anche appunto proprio di fatto, come i cantastorie per certi versi a cui si affidavano in termini di ispirazione. Peter Walker, poi Radio Giornale, poi ci risentiamo appunto per la seconda parte di 451 frammenti sonori.